Brahma, Mr. Brahma, Brahma, Mr. Brahma, Brahma, who? Mr. Brahma, Brahma, Mr. Brahma, Brahma, Mr. Brahma, Brahma. Sei passato da una vita di gloria alla semplicità, ma hai perso il tuo impero patrimoniale per poi giungere qua. Mr. Brahma Brahma, Mr. Brahma Brahma, Mr. Brahma Brahma, Mr. Brahma Brahma, Mr. Brahma Brahma, Mr. Brahma Brahma. Il giro vagato in lungo e largo in monte città, dopo varie strade per i pezzini sei giunto in questa sporca terra. Mr. Brahma Brahma, Mr. Brahma Brahma, Mr. Brahma Brahma, Mr. Brahma Brahma, Mr. Brahma Brahma, Mr. Brahma Brahma. Mr. Brahma Brahma, Mr. Brahma Brahma, Mr. Brahma Brahma.